Europa 24. E un saluto da Anna Migliorati. Ultima settimana di lavoro per questo 2014 per il Parlamento europeo a Strasburgo. Molti temi in agenda nella sessione plenaria che si apre oggi. Oltre al bilancio si attende il riconoscimento della Palestina da parte dell'Unione Europea. Ma anche a Bruxelles si discuteranno altri capitoli fondamentali, dal piano Juncker sul fronte economico ai rapporti con l'Ucraina. Il piatto forte resta comunque il programma della Commissione. La Commissione europea approverà domani il suo programma per il 2015 con una presentazione a Strasburgo dinanzi al Parlamento europeo. Il programma si vuole stringato. 23 le proposte legislative rispetto alle 60 messe sul tavolo dalla precedente Commissione Barroso nel 2013. Si vuole più politico, più efficace. Tra gli obiettivi, Bruxelles si propone di affrontare i problemi provocati dai flussi migratori, le difficoltà dell'industria, la libertà digitale. Nel suo programma, la Commissione propone anche di ritirare circa 80 iniziative legislative, tra cui due testi di natura ambientale, uno dei quali dovrebbe promuovere il riciclo dei rifiuti. Secondo il nuovo esecutivo comunitario, queste proposte sono bloccate da tempo dal Consiglio o dal Parlamento. Più in generale, il tentativo di Juncker è di ridurre la legislazione europea e limitare le regole comunitarie, anche per contrastare le pressioni euroscettiche in molti paesi, dove Bruxelles è spesso sinonimo di iperregolamentazione. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles. E grazie a Beda Romano. E poi c'è anche il capitolo Grecia. Due giorni dalla prima votazione del Parlamento greco per l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica, arriva ad Atene il commissario per gli affari economici e finanziari Pier Moscovici, appuntamento fissato tra un'ora alle 15. Ma in un'intervista al quotidiano Katimerini, Moscovici ha voluto già inviare un messaggio a favore dell'elezione di Stavros Dimas. Lavoriamo, ha detto Moscovici, con le persone che vogliono la permanenza della Grecia nel cuore dell'Europa. L'incertezza, aggiunto il commissario, non piace a nessuno, né ai mercati e nemmeno all'Unione Europea. La portavoce dell'esecutivo europeo parla intanto in questi minuti. La sola opzione a cui lavora la Commissione, ha ribadito, è mantenere la Grecia nell'eurozona. A Bruxelles intanto si avvia la conclusione, il Consiglio Affari Esteri in primo piano oggi, soprattutto la Siria, ha voluto ribadire l'Alto Commissario per gli Affari Esteri Federica Mogherini. Today, as you know, the main point on the agenda will be on Syria. We had a very good working meeting yesterday. L'Europa, ha detto la Mogherini, è pronta ad adottare misure concrete, è importante trovare gli elementi con cui sostenere gli sforzi dell'inviato speciale dell'ONU Stefan de Mistura, in particolare i piani di congelamento dell'ostilità, dice, e l'idea è che l'intervento europeo si concentri soprattutto su Aleppo, zona nevralgica dal punto di vista geopolitico ma anche dal punto di vista simbolico, ha ribadito l'Alto Commissario. Nel pomeriggio ci sarà anche un altro appuntamento importante, perché il Consiglio Affari Esteri sarà allargato all'Ucraina e da qui si attendono altre decisioni importanti. Settimana che si apre intanto per il rilancio dell'economia europea, con l'assegnazione anche di 485 milioni a 328 giovani europei nell'ambito di Horizon 2020. Tra loro 28 sono italiani, ma solo 11 lavorano realmente in Italia. Potranno realizzare i loro progetti, ciascuno con un fondo fino a 2 milioni di euro, grazie al più grande programma europeo di ricerca mai promosso. Italiani terzi tra i vincitori, dopo tedeschi e francesi. Italia però, che dicevamo, considerando i progetti davvero nel nostro paese, che scivola al nono posto. E infine parliamo anche di viaggi. Il sito di prenotazione alberghiere booking.com finisce nel mirino dell'antitrust europeo, che coordina così le indagini già aperte dai garanti italiani ma anche francesi e svedesi. Le autorità contestano la clausola di parità nei confronti con gli alberghi, in sostanza la clausola che li obbliga a offrire a booking.com prezzi uguali o migliori rispetto a quelli che propongono agli altri canali. Per le autorità sarebbe un comportamento che penalizza i concorrenti. Anche qui vedremo quale sarà la decisione. Si conclude invece questo appuntamento con l'Europa. Ancora buona giornata da Anna Migliorati. Europa 24, che vi ricordo, torna ad effetto notte. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.